Buongiorno Palestina, eccoci qui anche questo mercoledì, che è l'ultimo mercoledì prima dell'interruzione natalizia. Non ci saremo il giorno di Natale e non ci saremo a Capodanno, che cascano di mercoledì. Dalle 19.30 parliamo di Palestina. Volevo ricordare, prima di dare la parola a Lorenzo, che poi vi presenterò, volevo ricordare gli eventi della settimana. E gli eventi della settimana sono che donne operaie in una grossa colonia israeliana, una grossa colonia illegale israeliana, si chiama Mishar Adumim, ma comunque un grosso insediamento con una zona industriale, hanno scioperato per 2 giorni per il miglioramento delle condizioni di lavoro, perché mancano di assistenza sanitaria, mancano di ferie pagate e una serie di altri benefici. È la prima volta che c'è uno sciopero così marcato, e questo fa parte anche di un processo di sindacalizzazione che è crescente tra i palestinesi che sono costretti a lavorare presso le colonie israeliane, e che si tratta di 30.000 palestinesi che lavorano nelle colonie israeliane. Un altro dato della settimana è che il gruppo israeliano Adalah è un gruppo umanitario, ha pubblicato un rapporto sullo sradicamento di migliaia di beduini dal Negev, cioè sono arabi che abitano e risiedono dentro lo Stato di Israele e che lo Stato di Israele intende deportare. L'ultima cosa che volevo ricordare della settimana è la manifestazione che c'è stata all'Aia. Alcune centinaia di persone che venivano da tutta Europa e che manifestavano contro la irrilevanza che il Tribunale internazionale ha dato agli omicidi di palestinesi avvenuti durante la Grande Marcia. Su questo c'è stato una denuncia da parte palestinese, a cui la Corte internazionale ha risposto con sostanziale indifferenza. Bene, a questo punto vorrei però passare la parola a Lorenzo. Chi è Lorenzo? Lorenzo è un agricoltore nella zona di San Casciano, è stato recentemente in Palestina e ha visto alcune cose di cui ci vuole parlare, sia cose che riguardano l'aspetto agricolo, sia altre cose di cui poi parleremo. Prego, Lorenzo. Ma senti, la prima osservazione che ho fatto io durante questo nostro viaggio, quando eravamo nelle zone rurali, è l'enorme difficoltà che crea la parcellizzazione delle zone che ha creato Israele con le colonie. Cioè, praticamente le colonie sono state infilate, incuneate all'interno dei territori palestinesi. Questo vuol dire che, per esempio, io che per l'appunto produco vino e olio, coltivo gli olivi, e lì l'olivo era, in parte ancora è, una delle strutture portanti dell'economia locale, come se io per andare nel mio campo, che già ho una difficoltà economica enorme perché è difficilissimo riuscire a far quadrare i conti, per andare nel mio campo che è davanti a casa mia dovessi superare un confine o chiedere un permesso o addirittura allungare il viaggio di diversi chilometri per andare a fare il mio lavoro quotidiano, che già è un lavoro povero di soddisfazioni economiche. Quindi questo già crea un'enorme difficoltà anche alla struttura sociale ed economica dei palestinesi. Leggevo un articolo proprio in questi giorni su un possedimento palestinese che si trova nei pressi di Ramallah, in un posto che si chiama Yania, comunque, e dove i palestinesi hanno diritto di visitare e di recarsi nei loro campi 2 volte l'anno e per un giorno solo. Ovviamente, cioè, il possedimento è sempre loro, la proprietà è sempre loro, però loro ci possono andare solamente due volte l'anno e per una sola giornata. Hai ragione, è una pazzia. E poi un'altra cosa che è evidente, che proprio si vede a colpo d'occhio passando, che ne so, vedi su un lato della strada gli olivi palestinesi, che sono adeguatamente integrati ad una zona che è fondamentalmente siccitosa e semidesertica. E sull'altro lato della strada invece vedi delle piante rigogliose e gli olivi che hanno due balle d'olive addosso, e quindi una cosa impensabile perfino da noi. E questo dipende dal fatto che gli hanno rubato tutta l'acqua, praticamente l'acqua loro la usano ab libitum, mentre invece dalla parte dei palestinesi addirittura possono avere difficoltà per avere l'acqua per lavarsi o per gli usi domestici. E c'è poi da tener conto anche di un aspetto ambientale, cioè che con una impostazione dell'agricoltura così industriale c'è un consumo di risorse spaventoso che non è assolutamente compatibile e coerente con quel tipo di invece geografia, morfologia, pedologia che invece era perfettamente in equilibrio con i palestinesi. Cioè, pensando a un progetto di miglioramento dell'agricoltura palestinese, tu a che cosa potresti pensare? Ma senti, io passando di lì, io oltre che agricoltore sono anche laureato in agraria, ho anche fatto dei lavori di questo tipo in Italia, perché anche l'Italia non è tutta allo stesso livello da un punto di vista qualitativo. E quindi un'idea che mi era venuta, che è un po' complicata, un po' complessa, ma potrebbe essere interessante, sarebbe quella di andare lì, metterli in condizioni di fare un prodotto d'eccellenza, che chiaramente questo richiede una formazione, un'assistenza tecnica per migliorare. A volte sono piccole cose, non è che ne so, io ho visto soltanto in Italia, se confronto la Toscana, dove alcune tecniche di produzione d'eccellenza sono consolidate con altre regioni, in altre regioni in tempi non antichissimi usavano mettere le olive nei sacchi perché aumentava la resa. Aumenta la resa solo perché perde l'acqua, però in realtà la qualità va a farsi benedire. Quindi, riuscendo a dare un'assistenza a loro in loco per migliorare le loro tecniche, che, come ripeto, a volte è solo questione di un pochino d'attenzione in più e di saperlo, riuscire a fargli produrre un olio d'eccellenza, e poi bisognerebbe assisterli nella vendita, quindi portarlo qui e cercare di piazzarlo a dei prezzi che siano per loro interessanti, anche per sostenere quella che è stata in passato e in parte ancora una loro risorsa fondamentale, perché la presenza degli israeliani ha veramente avuto un effetto devastante sulla loro economia. Sul piano della qualità, c'è un olio, una domanda, c'è un olio palestinese e un olio israeliano e sono di qualità diversa? Tu hai avuto modo di fare verifiche di questo genere? No, non ne ho avuto il tempo, soprattutto non ho valutato gli oli israeliani, ma diciamo potrei ipotizzare che, così come mettono in campo tutti i mezzi necessari, loro possano riuscire. Quello che ho visto con i miei occhi è che le produzioni apparentemente erano veramente impressionanti, insomma, come quantità. Sulla qualità non saprei. Invece l'olio palestinese ho avuto proprio così, in quel brevissimo periodo sono stato in un frantoio. Il frantoio tutto sommato era simile ai nostri, quindi mancava un pochino di pulizia, ma insomma non potrei dire che fossero le attrezzature quelle che che mancavano. Però, ad esempio, la mosca, che da noi è una malattia che col cambiamento climatico sta diventando sempre più un problema, mentre invece, che ne so, fino a 20 anni fa non lo era, perché è una malattia che attacca di più i posti caldi, quindi, che so, in Maremma ce l'avevano di più 20 anni fa, in Chianti era quasi assente, si compariva soltanto ogni 5-10 anni. E invece lì il clima è estremamente adatto e le olive che io ho visto nel frantoio erano effettivamente molto, molto attaccate da questo parassita. Ecco, tu sei stato in... tu di quali zone ci parli? La Valle del Giordano o il resto? Perché la Valle del Giordano è una zona particolarmente verde, o almeno lo era. Poi è venuto 15 giorni fa in visita, è venuto come ospite nostro Rached, che è un dirigente del progetto della Valle del Giordano, che raggruppa tutte le comunità della Valle del Giordano per la difesa delle realtà palestinesi in questa valle, il quale ci raccontava che la Valle del Giordano, che una volta era verde, ricca di prodotti palestinesi che venivano esportati soprattutto verso l'Arabia Saudita, oggi non è più così. Non è più così perché molti alberi sono stati distrutti da parte dei coloni israeliani. Il commercio nei confronti dell'Arabia Saudita non è più possibile, perché il commercio si può fare solamente verso l'interno di Israele. Cioè, i palestinesi della Valle del Giordano possono trasferire i loro prodotti e venderli, ma solamente attraverso la mediazione di Israele. Non lo possono fare direttamente come facevano prima nei confronti dell'Arabia Saudita e della Giordania. Ecco, tu sei stato anche nella Valle del Giordano, o hai visto anche questa zona, o hai visto invece altre zone che tu mi dici più desertiche e meno opulente, diciamo? Ma senti, abbiamo fatto un giro abbastanza, pur se ci siamo stati una decina di giorni, abbiamo fatto un giro molto ampio, quindi siamo stati sia nella Valle del Giordano che in molte altre zone. Effettivamente, come dici tu, nella Valle del Giordano la pedologia, il terreno e anche la disponibilità d'acqua è molto migliore, e quindi le coltivazioni, cioè lì c'è la possibilità di fare un'agricoltura competitiva e produttiva. C'è da dire che anche lì il furto degli israeliani è molto diffuso, il furto di terreni, per cui vedi anche lì terreni che sono recintati, inaccessibili, insomma anche lì il problema dell'erosione del territorio da parte di Israele è molto forte. Ora io le zone deserte in cui ti dicevo invece proprio tipo sotto Betlemme, nella zona dove anche, sai, la cassa di gomme. La scuola di gomme. È la scuola di gomme, anche lì, parlando dei beduini, cioè se tu hai beduini gli impedisci di muoversi, e dopo come fanno a fare il nomadismo, soprattutto in delle zone così povere, povere da un punto di vista proprio di risorsa naturale, nel senso, ora noi siamo stati ad ottobre, erba non ce n'era, insomma. Tornando un attimo agli ulivi, questo Rached, questo dirigente del progetto della Valle del Giordano, ci diceva che solamente quest'anno sono stati tagliati da parte di coloni ben 320 alberi di ulivo. Questi vandalismi da parte di coloni sono verificabili anche in altre zone? Tu hai visto piante danneggiate? È una cosa che si rileva? Sì, purtroppo sì. Ora, soprattutto nei racconti di dei palestinesi che abbiamo visitato, a parte la disponibilità di filmati che sono accessibili, dove si vede dove effettivamente fanno questa cosa. Io ho visto delle foto impressionanti, certo, su questo piano. Certo. E ti dico, a me questa cosa mi turba in modo particolare anche da un punto di vista culturale, etico, morale. Cioè, per me che ho l'olivo nelle mie radici intime, pensare di poter andare per fare un dispetto al mio vicino, andargli a tagliare gli alberi, cioè, per me l'olivo è una pianta sacra e in quella zona lo è a maggior ragione, nella cultura delle persone, nella cultura anche religiosa, un po' di tutte le religioni. Quindi alla fine, poiché gli ebrei invece millantano la loro appartenenza millenaria a questa zona e a questa cultura, l'idea che loro possano per angariare gli abitanti del posto andargli a tagliare l'olivi, per me è una cosa inconcepibile assolutamente. Che poi parliamo di ebrei, ma molti dei coloni non sono nemmeno ebrei, insomma, dei russi che sono arrivati in Israele, una parte minore pare che siano ebrei, gli altri non sono mai stati ebrei. Con questo concludiamo questa prima parte e dopo l'intervallo musicale riprenderemo su un altro argomento, cioè le persone con cui Lorenzo ha parlato in Israele. A presto. Riprendiamo con un altro Lorenzo, non Lorenzo agricoltore, ma il Lorenzo che in Palestina e in Israele ha avuto incontri e colloqui non solamente con la parte palestinese, ma anche con l'altra parte. Ecco, su questo che cosa ci dici? Ma senti, la faccenda è iniziata un paio d'anni fa, quando io ho conosciuto un israeliano che ha un'agenzia turistica, organizza viaggi in Toscana come in altri posti per ebrei ultraortodossi americani. Abbiamo organizzato una gita, una cosa un po' particolare, perché loro abbiamo dovuto portargli noi il sabato l'acqua perché loro non se la portano, era luglio, morivano di caldo, insomma una serie di aneddoti di questo tipo. L'anno dopo mi chiede di riorganizzare la stessa cosa e io gli dico: guarda, io aderisco al BDS, quindi non te lo posso fare questo servizio. Lui, offeso, dice: come tu credi ai racconti dei nostri nemici, eccetera, eccetera. La faccenda è morta lì. Adesso, verso la fine della nostra visita in Palestina, io l'ho contattato per dirgli: guarda, a me piace sentirle un po' tutte le campane, quindi se hai voglia che ci prendiamo un caffè e facciamo due chiacchiere. E lui mi ha risposto entusiasta, dicendo: no, io questi, perché era la festa delle capanne, che per loro è una festa molto importante, commemorano quando Mosè attraversa il Sinai e costruiscono delle capanne per difendersi dal caldo nel deserto. Quindi loro, gli ebrei, costruiscono delle capannette sul terrazzo, ci dormono, è una storia molto particolare. E dice: guarda, vieni a casa mia perché io ho qui tutta la mia famiglia, in quel giorno lì tu vieni a pranzo e parliamo. E dove, e questo si è svolto dove? A Gerusalemme? A Gerusalemme, poco fuori, non lontano dalla porta di Damasco, una vecchia bella casa di pietra che non ha costruito lui, che secondo me faceva parte delle belle case dei palestinesi, e con un po' di giardino, una cosa veramente molto bellina. C'era tutta la famiglia, che questa aveva 4-5 figli con i rispettivi coniugi e bambini, e ha anche invitato un amico suo per convincerci che erano dei bravi ragazzi, un amico suo che era un pezzo grosso, tipo come potrebbe essere da noi un sottosegretario di un ministero, insomma un pezzo molto grosso. E io ero andato lì con un altro amico del nostro gruppo e veramente non ero del tutto convinto di dover affrontare l'argomento, ma invece sono entrati loro in argomento. E abbiamo parlato, prima di pranzo, abbiamo parlato un po' di tutta la situazione e prima di tutto gli ho chiesto se loro ci andavano in Palestina e loro mi hanno detto di no, che loro è tipo 20 anni che non ci vanno e che prima sì, avevano dei commerci, erano tutti contenti di andare, ma che adesso non hanno idea di cosa ci sia di là del confine. Ah, quindi parlavano per sentito dire e per aver letto, perché il massimo che uno può leggere in Israele è leggere Haaretz, cioè il giornale cosiddetto di sinistra, ma non, le cose effettivamente occorre vederle con i propri occhi, almeno questo è quello che ci dicono i palestinesi. Certamente, ma quello dico anch'io, perché insomma non... Anche da parte di alcuni amici e conoscenti in Italia che vedo a volte postano su Facebook, su internet, delle notizie totalmente false. Che ne so, ultimamente secondo me Corbyn è stato danneggiato dall'ostracismo che ha avuto da parte di alcuni ambienti ebrei con un'accusa assolutamente falsa di antisemitismo. mentre invece lui era semplicemente chiaramente schierato sull'antisionismo, che sono due cose molto diverse. Insomma, questi allora hanno cominciato a parlare per convincerti che Israele fa tutto al meglio e quegli altri hanno tutti torti, sì, suppongo. Sì, sì. Si è svolta la cosa? Ma senti, cioè, loro fondamentalmente mi volevano convincere che loro erano dei bravi ragazzi. In effetti un pochino lo erano. Ora, fra i presenti devo dire che c'era anche un generale in servizio dell'esercito israeliano, e lui veramente era partito subito con dei discorsi totalmente fuori dal binario, tipo che la Palestina è loro... Palestina naturalmente è un nome che non viene citato, ma... che loro da 2000 anni, e io gli ho detto: guarda, se gli argomenti sono questi, gli altri ne hanno almeno il doppio, e quindi è inutile che stiamo a parlare. Lui è stato un pochino messo in un angolo, e ho continuato invece a parlare col mio amico e col pezzo grosso. E col pezzo grosso. Il pezzo grosso, che pezzo grosso era? E ti dico, è uno che è stato ambasciatore in una... Ora non voglio dire troppe cose, ma insomma, un ambasciatore in una grossa città europea per Israele, e una specie di sottosegretario di un ministero, insomma, un pezzo grosso. Vabbè, ci ha fatto dono di alcuni libri scritti in italiano, scritti da lui sulla religione ebraica, interessante. E mi dicevi che era un pezzo grosso di orientamento tipo Rabin, cioè di tipo laburista? Io penserei di sì, anche se ti devo dire che quando parli con questa gente non capisci mai proprio bene che cosa gli passa per il capo e che cosa... diciamo, il mio amico certamente... Poi stiamo parlando di gente che ha studiato a Oxford, il mio amico è nato in America, quindi comunque dei tipi con una mentalità aperta, però capire proprio bene che gli passa per il capo non è facilissimo. Comunque, per fartela breve, a un certo punto io gli ho detto... Dico, scusatemi, ma cioè io ho visto, cioè c'avete i ragazzi che gli tocca stare 3 anni sotto una tettoia ad angariare questi poveri palestinesi, ma anche loro, voi, cioè io non potrei concepire, non dico che mio figlio andasse a sparare dal confine alla gente di Gaza come se fossero piccioni, che quello lo trovo, cioè veramente... lo troverei inconcepibile, ma anche soltanto sta lì 3 anni a fare servizio militare sotto una tettoia di plastica a rompere i coglioni alla gente che passa, ma come pensate che sia una cosa su... cioè siamo arrivati al punto che le colonie e i paesi palestinesi sono talmente compenetrati che non si riesce più a capire chi è il carceriere e chi è il carcerato. Com'è tollerabile una situazione di questo tipo? Dico, non vi sembra che sarebbe ora di farla finita? Insomma, alla fine a me sembrava che la soluzione dovesse essere quella di uno Stato secolare dove con pari diritti fra ebrei e palestinesi. E gli ho chiesto, dico, ma non pensate che sia questa la strada unica e possibile? E lì lui mi ha detto che sì, che lui lo pensa, però dice, non sono convinto che gli israeliani siano pronti, ma forse neanche i palestinesi. Ecco, e su questo il desiderio di pace, l'insofferenza verso lo stato di guerra è emerso in qualche maniera? Perché io con i pochi israeliani con cui ho avuto modo di parlare, tutti dicono: vogliamo la pace. Certo, la pace è meglio della guerra, bella scoperta. Il problema è di avere la pace giusta, non una pace che sia diciamo, la prevalenza dell'uno sull'altro e soprattutto l'assenza di una parità di diritti. Ecco, su questo, sull'ultima legge che hanno fatto, la legge che privilegia gli ebrei rispetto alle altre etnie, avete accennato qualche cosa o non ci siete andati? No, non c'è stato il tempo, ti dico, questa conversazione sarà durata una quarantina di minuti, però diciamo che poi, se posso rendermi impopolare anch'io, diciamo che quando dico che la ora sono l'ultimo arrivato, ma quando dico che l'unica soluzione sarebbe uno Stato secolare a pari diritti, non ho dubbi che poi in realtà sarebbe uno Stato d'apartheid. Però sai, l'apartheid in qualche maniera poi col tempo con la paglia si risolve, mentre invece la situazione in cui sono, ora è di guerra da 70 anni, quindi non è possibile andare avanti in questa maniera. Insomma, tu mi dici che allora questa conversazione è durata una mezz'ora, dopodiché siete riusciti anche a mangiare? È stata andata così? È andata così, però aspetta che ti devo un po' finire la situazione nella conversazione. Quindi la faccenda è finita che il pezzo grosso, l'amico mio, il pezzo grosso soprattutto, ci ha invitato a cooperare con questo obiettivo di pace, e la cooperazione avrebbe dovuto essere, lui diceva, te cosa fai? Te fai il vino, te fai l'olio, allora dice mi piacerebbe che tu facessi venire dei gruppi misti intesi come israeliani, palestinesi, in Italia, a vedere come si fa il vino, come si fa l'olio, di modo che questo tipo di convivenza poi creerebbe le basi per un futuro processo di pace. Ora, io lì per lì l'avevo anche presa sul serio questa cosa, tant'è che loro mi hanno anche creato un contatto con un'associazione che si chiama EcoPeace, ecologia, processo di pace attraverso l'ecologia. Il problema è che subito dopo hanno bombardato Gaza, quindi ho detto ma forse questa loro convinzione di voler fare la pace, cioè la pace con i bombardamenti non si fa. Certo, la situazione è molto complessa. Ma questo mi ricorda un incontro che abbiamo avuto in sinagoga tempo fa, in cui siamo stati, da parte della comunità israeliana, diciamo sionista, c'erano delle posizioni incredibilmente sioniste, cioè di quelle che tu dicevi erano quelle del generale, noi siamo qui da 2000 anni, eccetera. Però conclusa sempre con un invito. E questo invito a che cosa ci hanno invitato? Ci hanno invitato a un seminario in cui i relatori erano Fiamma Nirenstein, erano un altro berlusconiano, tutti berlusconiani, ma cioè nessuno con cui tu possa avere un dialogo o tu possa mettere a confronto le rispettive letture e le rispettive culture. Ecco, questo è una cosa che attualmente manca e di cui io sento profondamente la mancanza, cioè il fatto che a un certo punto ci si possa mettere onestamente intorno a un tavolo a dire io ho letto questo, tu che cosa hai da dire su questo? Quando io parlo di quello che ha denunciato Ilan Pappé o altri, o i pochi israeliani che dicono le cose come stanno. Ecco, su questi personaggi, Gideon Levy, Amir Haas o altri, avete mica accennato per caso? Ma no, se è durata mezz'ora. Ma per spiegarti un pochino meglio la psicologia, ti vorrei far presente un episodio. Cioè, non mi ricordo se la sera stessa che siamo stati a pranzo da questa famiglia, che fra l'altro tu dicevi il pranzo è stato fantastico, è stato un punto in cui abbiamo mangiato meglio e comunque erano carini e simpatici e comunque non dei cretini, non so come dirti, non persone che capivano. Però è successo che noi eravamo ospiti nella zona vecchia di Gerusalemme, nel cuore della zona musulmana, e eravamo precisamente, aspetta, alla casa degli armeni, proprio nel cuore, dove c'è uno slargo, non è neanche una piazza, è proprio uno slargo. Ecco, il giorno di chiusura della festa delle capanne, i giovani ebrei, quelli proprio ultranzisti, eccetera, eccetera, sono venuti a fare un ballo proprio lì, no? Allora io, che avevo anche preso altri appuntamenti con loro per conoscere degli industriali palestinesi di Gerusalemme, eccetera, gli ho detto: guarda, io non ce la posso fare, perché dico, se questi qui, cioè, che cosa gli è venuto in capo quelli di venire a fare la loro festa ultraortodossa nel cuore del quartiere musulmano? Dico, ma non ce l'hanno, c'hanno il quartiere il quartiere ebreo dentro Gerusalemme, c'hanno tutta la zona esterna, proprio lì devono andare a farlo. Oltretutto ti devo dire, anche a me dava una, anche se in realtà ballavano, mi dava una sensazione di aggressiva, di essere una cosa. Ecco, per dirti la psicologia di questi israeliani, lì per lì mi ha detto, dice, no, ma loro volevano solo fare la festa, potevi andare anche tu. Il giorno dopo mi ha detto, beh, dice, sai, il rapporto non è facile, bisogna un pochino capire. Quindi ti dico, evidentemente anche loro, almeno quelli che capiscono, quelli che vedono, sono un po', tirano un po' da una parte, un po' da quell'altra, non è facile. Bene, con questo concludiamo questa trasmissione, ringraziamo Lorenzo e vi diamo appuntamento all'8 di gennaio, quando riprenderemo Buongiorno Palestina. E con questo abbiamo veramente concluso. Grazie Claudio e grazie Lorenzo, e auguriamo a tutti buone feste.